Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why. Il terzo orgasmo, rubrica letteraria di cultura lesbica femminista, presenta Dal volo al trip, lo strano viaggio di Mrs. Millet, prima parte. Bentornate, bentornate, bentornate, e ve lo dico in tutte le lingue. Welcome, bienvenidos, willkommen. E adesso basta che ci siamo già slinguazzate troppo. 90 giorni che non ci vediamo e pensa ti vedo più saggia. Fammi vedere, sì, saggia è la parola giusta. Sì. Più capelli bianchi, qualche ruga, un po' sfatta. Io almeno i capelli ce li ho, cara, mentre tu, come direbbe Frida Kahlo, sei sempre più pelona. È con vero piacere che ci ritroviamo anche quest'anno insieme per nuove incredibili avventure. Avventure dello spirito, si intende, perché la nostra concentrazione monacale non concede troppi sfarfallamenti e sfrigoli della carne. Vorrei dire cigoli della carne. Ma che te piato? Tutti questi riferimenti alla decadenza del corpo, e cigoli, e rughe, capelli bianchi, che... Così, non so, alla vigilia dei 40 ormai mi chiamano tutti signora. Signora di qua, signora di là. Guardami, look at me, busco a me. Che cosa è cambiata in un anno che tutti non possono fare a meno di notare? E poi, signora, a me. Mia cara, pensa che a me... Alla vigilia dei 50 tutti continuano a chiamarmi giovanotto, come l'altra volta alla fermata del bus quando avevo indossato la mia camicia azzurra, quella che ti piace tanto. Giovanotto, quando parte il 20? Can't explain how good it feels. a mercy killing. I couldn't sleep for a week. I kept feeling it's breaking bones. I heard if you see a star at night and the conditions are just right and you are standing on a cliff, then you can close your eyes and make a wish and take a step and change some. Kill to make you feel. I kill to move your face an inch. I see you staring into space. I wanna stick my fist into your mouth and twist you up to cut your soul. I'd kill to make you feel. Saying it now, I'm saying it now. Even if you never hear the song, somebody else will know. I'm saying it now, I'm saying it now. Even if you never hear the song, somebody else will know. I just can't explain how good it feels. I just can't explain how good it feels. Rimaniamo in tema di vegliardia, vecchiezza, anzianità, vecchiaia, terza e quarta età. Eh sì, perché a dispetto di tutte le lesbiche, le femministe, le importanti donne rigorosamente, rigidamente morte, di cui ci siamo costantemente occupate quest'anno, della serie ci piacciono veramente solo se defunte, ecco, a dispetto della morte c'è ancora qualche femminista storica che rimane in vita, quindi sbrigamose. Femminista storica e un po' lesbica, aggiungerei. Che vuol dire un po' lesbica? Un po' in che senso? Oggi sono stanca del politically correct bisessuale. Possiamo usare la dicitura un po' lesbica? Allora, oggi, per la serie Un po' lesbica, ci occuperemo di Kate Millett. O Kate Millett? Ho sentito una teorica femminista di chiara fama chiamarla Millett. Quella teorica femminista, la sua chiara fama non l'aveva raggiunta nella lingua francese perché avrebbe allora dovuto dire mie. Nel clip della follia effettivamente l'autrice fa riferimento ad un'origine francese del cognome, seppure Millett fossero irlandesi trapiantati negli Stati Uniti. Chiamiamola Kate e basta allora, per non sbagliare. Ma se qualcuna sa l'esatta pronuncia del cognome, che ci chiami tempestivamente o taccia per sempre. Perché gli slinguazzamenti di Nancy hanno dei confini precisi e non riescono ad oltrepassare la nostra nazione, dea lo volesse. Certo, orsù, non indugiamo innanzi e diamo una presentazione a questa grande scrittrice femminista. E mi piace sottolineare l'espressione grande scrittrice femminista, perché non so se succede anche a voi, ma accade di rado che le brave teoriche scrivano anche buoni romanzi e viceversa. L'impegno politico e la finzione letteraria spesso contrastano in effetti, ma non sempre. Poi dipende, che cosa intendi per buoni e per romanzi? Eh no, te prego. E subito da capipponi no, e ti prego no. Non te lo vorrei proprio dire, ma te lo dico lo stesso. A te tutta questa vacanza non ti fa bene per niente. No. E mi torni cupa, accigliata, nervosa e scorbutica. Quasi quasi era meglio che te ne stavi nella tua isola. È verità. Niente mi lega a te più della distanza. Credo che rifletterò un po' su questa tua affermazione, che mi pare un tantino significativa. Looking up from underneath, fractured moonlight on the sea, reflections still look the same to me as before I went under, and it's peaceful. so sweet and so cold. And all this devotion I never knew at all. And the crashes I had for a sinner. Carissime radioascoltatrici che vi siete collegate in questo momento, oggi parliamo di Kate Millett e per tenere il punto eravamo al contrasto tra impegno politico femminista e narrativa. Già, le domande di oggi che rivolgiamo alle nostre appassionate editrici, nonché lettrici, sono ben due. La prima, number one, la componente ideologica insita nell'impegno politico assunto da lesbiche e da femministe. Blocca o rende più copiosa la vena artistica della scrittrice, della scultrice, della pittrice? Che vuol dire? La seconda, number two, qual è la misura stilistica per cui la teoria femminista esula dal portato politico per divenire romanzo? Che vuol dire? Al quadrato? Abbiamo già tirato in ballo in altre puntate vari riferimenti al nodo della verità da parte di tante autrici di cui ci siamo occupate. In questo caso parliamo di una verità spudorata, una verità in corso d'opera che rende i libri di Millett quasi, concedetemelo, dei romanzi veristi o più precisamente dei romanzi di formazione. Che bordì! È semplicissimo, romanzo verista, nel senso che mette in campo una verità che supera ciò che è comunemente osservabile, ma in questo caso supera anche l'argine dell'accettabile, del controllato, del buon gusto, delle categorie a cui siamo legate anche noi stesse lesbiche. Però contemporaneamente, proprio per aver trasgredito questo limite, si fa arte. Kate Millett diviene il personaggio di se stessa e il romanzo di verità si fa romanzo di formazione perché pretende di dar conto di un'evoluzione morale del personaggio a confronto con le varie realtà e difficoltà che deve affrontare nel mettere in pratica le sue idee. Ah, chiarissimo adesso, eh? Oh sì, chiaro e semplice. Tanto che domani a scuola ne parlerò con le mie alunne. Vedrai che successone. Ok, facciamo un passo indietro e andiamo pian pianino. Finalmente. Finally. Dunque, Kate Millett nasce nel 1934 a St. Paul, nel Minnesota, dove frequenta l'università. Qui diventerà, senza volerlo, una figura di spicco del femminismo con la pubblicazione nel 1969 della tesi di dottorato che diventerà poi il libro Sexual Politics, tradotto da noi nel 1970 con il titolo La politica del sesso. Siamo nel cosiddetto secondo femminismo, quello radicale di Firestone, quello perbenista di Betty Friedan, ma anche quello della pratica dell'autocoscienza e delle manifestazioni contro il colonialismo e il razzismo. Sono anni di grandissimo fermento in una città che non è solo un centro propulsore della politica dei gruppi minoritari, ma è anche importante centro culturale delle nuove sperimentazioni artistiche. Lei diviene una figura pubblica, un punto di riferimento femminista, ma, come si diceva prima, senza volerlo. Scrive nel libro In volo del 1974. La politica del sesso era stata una tesi di dottorato redatta con un linguaggio ufficiale e asettico, così da accattivarmi una commissione formata da professori di letteratura inglese in una situazione di assoluto colonialismo. Date le premesse, ho ovviamente considerato In volo il mio primo libro e ho continuato ad amarlo più del resto della mia produzione letteraria. Non l'inglese, bensì l'americano. La voce che sentiamo nelle nostre teste, i frammenti di frasi, soggetto, verbo e complemento. La tesi di dottorato, infatti, viene pubblicata in un momento in cui lei, le sue idee, la sua vita sono andate molto avanti. Un momento quindi in cui non si riconosce del tutto nelle idee, nello stile e nel linguaggio di quel libro e soffre perfino delle conseguenze più rosee di quella pubblicazione. Quindi, in qualche modo, ha un rapporto ambivalente con la politica del sesso, perché da un lato, dall'enorme successo del libro, verrà fuori un contratto con la casa editrice che le frutterà fior di soldini e che le aprirà le porte dell'insegnamento e delle conferenze in giro per il mondo. Dall'altro, questa enorme popolarità è difficile da gestire, soprattutto quando le lesbiche radicali cominciano a chiederle un coming out pubblico, cosa che la manderà ai matti. Letteralmente. In soldoni, non si riconosce più o non del tutto nelle cose scritte in Sexual Politics, neanche in quello che la gente presente alle sue conferenze si attende da lei. Succede anche che viene criticata dalle femministe eterosessuali perché con il suo lesbismo rischia di ostacolare il movimento politico delle donne che non si sarebbero certo riconosciute in una omosessuale. Il pericolo Malva lo chiamava Betty Friedan. Ancora da In volo. Il sogno di quella notte, un processo da parte del movimento. Figure di donne in fila lungo le pareti di una stanza mi fanno domande e giudicano la mia vita. Le domande sono critiche, quel tono di sfida che giudica e ferisce, che fa tanta paura negli amici. La strana impressione che siano domande giuste, istruttive. Mi tormentano con i ruoli. Quelle che fanno domande non sono omosessuali, sono quelle che hanno più cose da rinfacciarmi. Ma viene anche criticata dalle lesbiche perché non ha il coraggio di assumersi la responsabilità del suo lesbismo in pubblico. Jill vorrebbe chiedermi un favore. Sono disposta a fare un'apparizione su Canale 13? A fare la lesbica in televisione? Quando mi rimetto in macchina, pur non essendo presente, Jill è con me. Una voce folle, insistente, non vuole andarsene, martellante, sono una vigliacca. Il mio io risponde, si difende, spiega, supplica. Ma lei ha avuto sentore della mia paura e non demorde. È la mia metà migliore, incorruttibile. Sono diventata un'altra, tutte le altre, quelle che mentirebbero, quelle che non renderebbero mai la cosa di dominio pubblico, quelle pronte a tradire. Ha sentito la complicità nella mia diplomazia, l'individualismo nella mia insistenza, nel valore della privacy o almeno della libertà di scegliere dove e quando. E come se non bastassero le critiche delle compagne femministe eterosessuali e quelle delle compagne femministe lesbiche, si aggiungono anche le critiche della famiglia. Per non farsi mancare nulla. Anche a casa, infatti, la pubblicazione del suo libro non è ben vista. Tutt'altro che fiere, le zie da parte di padre, appena leggono che nel libro della nipote si parla di sesso, la ripudiano. E poi c'è sempre la mamma. L'emblema della famiglia. Sappiamo tutte quanto pesa la condanna morale della mamma. Ad un certo punto, quando lei manifesta alla sorella l'intenzione di pubblicare un libro sulla scoperta del lesbismo, appunto In volo, la sorella le dirà... Ah, non vorrei far questo alla mamma. Oh, sto già male. Ne morirebbe. La mamma è sempre la mamma. E di mamma, per fortuna, ce n'è una sola. What down on me? Don't know me. Yeah. Yeah. Yeah. Don't want- Da In volo, 1974, Kate Millett. Se esiste un sentimento che io possa chiamare mio, è questa terribile energia sconnessa che si consuma da sola, come un circuito chiuso. Decisioni banali mi sembrano enormi, incerte, misteriosamente impossibili. Non si può cominciare niente visto che non si sa quale sia il primo passo da fare. Per non sbagliare, non si fa niente. Questo sentimento costante di crisi rispetto alla realtà, alla propria identità, ai rapporti sociali, lo ritroviamo costantemente nelle opere autobiografiche di Millett, fino alle ultime. Un costante terrore di vivere che prende spesso i connotati della pazzia e che in qualche modo la porterà più volte negli ospedali psichiatrici. Da Sita, 1977, Kate Millett. Spostata, penso. Sono semplicemente una spostata nella vita, incompetente, incapace di adattarsi alle situazioni e da ultimo anche incapace di parlare, di far conversazione, pettegolezzi, battute. Non ho più emesso suoni. Come se avessi perso la lingua, come se stessi diventando deficiente, cretina, idiota. La scomparsa dell'amore può produrre tutti questi sintomi di degenerazione? Eliminare qualsiasi residuo di fiducia in se stessi, di capacità, di intelligenza. Al piano di sopra, tutti gli oggetti mi sembrano minacciosi. In Sita, Millett descrive la sua storia d'amore, forse sarebbe meglio dire l'epilogo di una storia d'amore con una donna. Un amore che ha le sembianze di un rapporto di potere continuo e sfiancante. E che novità! Occorre però fare un passo indietro e riprendere in mano quel po' di lesbismo. Bisessualità. La bisessualità, esatto, a cui si era fatto cenno. Non era dura e pura come la sopra citata Jill, Kate Millett, tutt'altro. Le sue storie d'amore con donne cominciano nell'adolescenza, ma si ritrova ad avere anche rapporti con uomini senza farsi troppi problemi. Il desiderio sembra poter giustificare tutto. Mi sa che noi non siamo molto d'accordo su questa visione della bisessualità, o sbaglio? Ne riparleremo la prossima volta, magari, quando faremo la seconda parte di questa puntata su Millett. Alcune delle sue relazioni con uomini furono anche rapporti importanti, come per esempio quello con Fumio, uno scultore giapponese che conosce durante un viaggio in Giappone e con cui si sposa per poter dare a lui la cittadinanza americana. La cosa li fa sentire rivoluzionari e ribelli. Decidono quindi di avere un rapporto matrimoniale libero. Possono andare con altri uomini e con altre donne. Non sono l'uno il possesso dell'altra. Scriverà Millett che la natura umana è bisessuale. In realtà poi, da tutta questa libertà intellettuale, sessuale, emotiva e politica, sembra venir fuori un colossale pastrocchio, per dirla pulita. E per dirla sporca? E i cavalli del clip della follia ti hanno lasciata senza parole. Non mi ci fare pensare che poi faccio gli incubi, guarda. Lasciamo allora le nostre radioascoltatrici con questa pruriginosa curiosità sulla libertà sessuale di Kate Millett, che potrete soddisfare da voi con la lettura dei suoi corposissimi libri. E torniamo sul nostro sentiero. Eravamo dunque giunti a Sita ed eravamo partite da due domande, ricordate? La prima riguardava il binomio arte impegno politico. Kate Millett cercherà di seguire entrambi questi binari, quello politico con l'impegno per le donne, per i neri, per il pacifismo, per i carcerati, per cui viaggerà molto anche in Europa, e poi quello artistico con l'intento di diventare scultrice o scrittrice o comunque un artista, e che la porterà ad acquistare una sconfinata fatteria ancora inesistente, la Women's Art Colony Farm, a Poughkeepsie, a 60 miglia da New York, dove le donne si sarebbero dovute dedicare alle arti. La sua vita quindi è molto composita, molto articolata, e tutti questi tasselli vengono per l'appunto descritti in Sita, ma non sembrano amalgamarsi molto bene. In più il tutto è condito con memorie di ospedali psichiatrici e tentativi di suicidio. Una libertà piuttosto problematica, oserei dire. La storia è questa. Sita e Kate vivono un periodo di amore molto intenso e molto bello, ma Kate non riesce a vivere solo una vita d'amore e quindi decide di vivere 6 mesi a New York e 6 mesi in California con Sita. Del resto Sita sembra non riuscire a fare a meno degli uomini, o a usare gli uomini per avere un certo potere su Kate. In breve, Kate si ritrova nella sua casa con Sita, che però non è più casa sua, ma è divenuta una sorta di comune in cui non c'è più posto per lei. La comune è l'inferno, la giungla, e avrebbe potuto essere divertente. Non aveva intenzione di litigare con queste persone. Eravamo amici quando non dovevamo vivere insieme. E poi c'è un male terribile chiamato noia. Mi annoiavo anche là. Ma che cosa vuol dire annoiarsi? Che cos'è la noia? Forse l'incapacità di dare un significato alle cose, di capire a fondo una realtà che si è percepita, di arrivare ad una comprensione, in parte raggiunta, ma sempre raggiungibile. Non è mancanza di interesse, ma interesse frustrato, deluso, gestito in modo imperfetto. Come dice il cronicologi, ma per me è paura del vuoto. Assisto alla vita di Sita e mi accorgo che la mia vita è vuota, improvvisata. Manca delle cose di cui è ricca la sua: famiglia, figli, nipoti, gente giovane. E anche di rispettabilità, posizione, lavoro, colleghi, comunità. Me ne sarei mai accorta se non fossi venuta qui. Se avessi continuato a pensare che la mia esistenza quasi boemienna fosse la migliore vita possibile. Adesso mi chiedo, la invidio questa vita? Sì. La vorrei anch'io? No. Allora perché questo nervosismo? Il terribile dolore che provo in questa casa? Il passato mi ossessiona, la primavera scorsa, quando eravamo sole e la casa era una specie di musica. Eppure non volevo restare, limitare me stessa, e così mi sono andata a prepararmi uno studio nella mia città. Naturalmente la mia intenzione era di vivere due vite, una qui e una là. 6 mesi in un posto, 6 mesi nell'altro. Non si può vivere in 2 posti. È impossibile, naturalmente. Nessuno può essere così vanitoso, così presuntuoso, così illuso da concepire seriamente una simile possibilità. È una cosa che non si fa. Il mondo non è stato fatto in questo modo. Si vive in un posto o nell'altro, non in 2 contemporaneamente. Si sceglie un mondo o l'altro, non entrambi. Si sta a New York, la grande città, dove tutto succede, gli artisti, i galleristi, gli editori e la macchina che governa la terra. Oppure si segue l'ispirazione del momento e si decide per la California assolata. Ci si rilassa e si sceglie la natura, il paesaggio, la vita facile. Se resto qui, sono perduta. Se me ne vado, la perdo. Yeah. Ma non erano due le domande? Sì, la seconda, la number two, riguarda la cifra stilistica che differenzia un'opera politica da un romanzo. Odi anche tu? No, non odo nulla. Non senti lo sgocciolio? Che sgocciolio? Quello del sudore del mio neurone. Pardon, mi ero dimenticata del tuo neurone sul tapirulon. Significa qui che anche per oggi siamo giunti alla fine della puntata. Comunque io non noto proprio nulla, secondo me è stato ammazzato da un bel pezzo su quel tapirulon. Puoi giurare. Allora, finisce qui la prima parte della nostra... Dello strano viaggio della signora Millet. Sì, quindi della nostra dedica a Kate Millet. Questa è la prima parte. Vi diamo appuntamento per la seconda puntata al 26 novembre. Quindi chi volesse ancora continuare a seguirci incuriosita da questa scrittrice teorica femminista, di quello che vuoi fare, mentre fate il tapirulon, nel frattempo il mio neurone appunto si andrà a fare un pochino di ginnastica che ne tiene tanto di bisogno. E quindi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento al 26 novembre con appunto la seconda parte. A bientôt. Poi vi auguriamo naturalmente un buon Halloween a chi si traveste dolcetto, scherzetto, sessetto. E Nancy Genziana, chiudiamo qui sul sessetto. Ciao. Ciao. Ir mėnulyje nevyksta karas, o mėnulyje daug valgyklų, kur nemokamos bandelės. O mėnulyje gyvena elniai, jų nenumuša mašinos. Kai jie žiūri šitaip švelniai, net vaikams nėra anginos. Ten kiekvienas pats sau nojus, ten visai nereikia skėčių. O mėnulį yra drakonų, jos paglostyti gali. Bet kodėl, kodėlgi broli, tas mėnulis taip dalis.